Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:08 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e preparatevi a non buttare assolutamente via niente. Oggi infatti cercheremo di vedere se fra le cose che abbiamo mantenuto nei cassetti, negli armadi, ci sono oggetti che possono essere ancora utili in qualche modo, possono piacere a qualcuno e magari possono anche avere un bel valore. Quindi insomma, per oggi non buttate via niente, poi da domani magari ricomincerete a farlo, perché ogni tanto bisogna liberare la casa degli oggetti, altrimenti poi non riusciamo più a entrare. Sto parlando per me stesso soprattutto. Prima però di addentrarci nell'argomento di oggi, come sempre le informazioni, ovvero i numeri, i vostri messaggi al 349-238-6666, la nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero, che come sempre vi servirà per raccontarci anche la vostra esperienza. Fra l'altro, parentesi, la settimana scorsa abbiamo parlato di blog e moltissimi di voi hanno pubblicato il loro sulla pagina di Facebook, quindi se qualcuno fosse interessato a raccontare i propri blog o andare a vedere quelli pubblicati può visitare appunto la pagina. Ma c'è anche il mistero alle 11:30. Il mistero in 24 minuti per aiutarvi a essere premiati, speriamo, con 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero questa settimana. E la risposta, come sempre, può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. E il primo indizio è questo: ritornerei, lo so, ritornerei. Eccolo qui, questo è il primo indizio. Si parte da 1000 euro alle 11:30, ma potete chiamare già da adesso per prenotarvi. Il numero verde è questo: 800 24 00 24. Allora, dicevo, non buttate via le cose, perché parliamo di collezionismo, ovvero quali sono gli oggetti che voi conservate, gli oggetti che collezionate, appunto, magari di nessunissimo valore, o invece oggetti che un valore ce l'hanno. Scopriremo oggi quali sono le collezioni più amate degli italiani, quelle magari di maggior valore e quelle che non valgono niente. Poi scopriremo anche qual è il meccanismo psicologico che ci porta a collezionare, a mantenere, a tenere e assolutamente a non buttare via anche le cose più inutili. Questo nel riposo del guerriero. Io devo dire che Cats, per quanto io possa amare Andrew S. Weber, lo trovo noiosissimo, davvero. Poi la versione inglese soprattutto, ma perché è una storia lunga, noi non conosciamo quelle storie dei gatti eccetera, siamo poco coinvolti e non me ne vogliono gli ascoltatori che magari amano questo musical. Io lo trovo un po' noioso, l'ho visto anche molte volte, però tutti quando vanno a vederlo aspettano questa canzone, c'è niente da fare. Funziona così, è giusto anche Memories, ma anche perché le collezioni sono sempre legate alle memorie, alle cose di un tempo. Dario Colombo, ciao, benvenuto, bentornato, soprattutto buona domenica. Ciao, Dario Colombo, dovete sapere che ha condotto proprio per Radio 24 una rubrica, si chiamava Il collezionista, qualche anno fa. E in questo momento Dario credo che sia anche in un posto a cercare che cosa, Dario? Ma guarda, allora, io mi trovo esattamente alla Twil, quindi in Val d'Aosta. Sì. E mi sono fermato, stavo viaggiando un po' per favorire il collegamento, ma soprattutto perché ormai la passione è incontrollabile, sente. Ecco, certo. E ho visto un piccolo negozietto da rigattiere dove mi trovo in questo momento, stracolmo di oggetti, naturalmente di vecchie baite, quindi vecchissimi sci, vecchissimi portapane, cassapanche, e quindi adesso praticamente passerò la giornata qui, rinuncerò a sciare e spenderò degli altri soldi, ma questo è il destino dei collezionisti. Ecco, il portapane, che è quell'attrezzo che si appende verticalmente con delle aste di legno e longitudinali, serviva per far raffreddare il pane appena uscito dal forno, ma è un bellissimo portalibri. Esatto, adesso gli utilizzi sono uno scaffale per i libri. Scaffale per i libri. Portacappelli, poi ognuno ovviamente scatena la fantasia, ma originariamente era utilizzato per questo e soprattutto in Alto Adige invece viene utilizzato ancora. Forse gli ascoltatori un po' più addentro a queste cose sanno che nei Masi in Alto Adige si fa il pane ancora solo due volte all'anno e poi per il resto dell'anno il pane fatto viene conservato appunto su queste rastrelliere dove rimane appunto fino all'infornata successiva, quindi è uno strumento nato per uno scopo, adesso utilizzato per altri, ma insomma questo è un po' il bello del collezionismo, anche ridare nuova vita a delle cose che sono nate per altri usi. È proprio così. Il riposo del guerriero. Con Dario Colombo stiamo parlando di collezioni e collezionismo. Allora Dario, intanto cerchi qualche oggetto, ma tu collezioni qualcosa in particolare o semplicemente ti piacciono le collezioni in generale? Il dramma è che mi piacciono le collezioni in generale. L'avevo capito. Ed è un dramma, sì, ma cos'hai? Non so, 26 garage, cos'hai preso per conservare? Da un lato ho la fortuna effettivamente di avere una casa sufficientemente grande, di averne poi un'altra in montagna che è la casa di famiglia, dove tengo quella che forse è la collezione più importante, anche se vogliamo più significativa, nel senso che, facendo un attimino, allargando i confini, fino al 1918 voi sapete che il Trentino era Austria, quindi i miei nonni, pur parlando italiano, ovviamente erano sudditi austriaci, e quindi la mia collezione che sta là è una collezione di cimeli dell'impero austro-ungarico, che va da foto con dediche di Francesco Giuseppe, uniformi, lettere, libri, insomma, quindi tutto quello che riguardava quel periodo storico, e quello sta là. Poi, ahimè, la mia professione mi ha portato per anni in giro per il mondo, occupandomi soprattutto di sport, per cui inevitabilmente, in qualche caso anche abbastanza così casualmente, ma voglio dire, Michael Jordan mi regalò la sua maglia e naturalmente la conservo, Schumacher mi regalò un suo casco e naturalmente lo conservo, e quindi c'è una collezione di cimeli. Ecco, tutti devo dire non troppo ingombranti, per cui riesci anche a vivere in queste case, non è che sei costretto a dormire in albergo. Certo. Ecco. No, certo, poi al di là delle battute, poi la collezione secondo me deve nascere non tanto dal potere del portafoglio quanto dalla curiosità. Ecco, è lì che volevo arrivare, si colleziona anche al di là del valore dell'oggetto. No? Assolutamente sì, anzi direi che le collezioni più belle sono quelle che nascono appunto intanto dalla curiosità, che deve essere la molla principale di ogni buon collezionista, poi dalla capacità di saper cercare di trovare. È un po' come per chi va a caccia, no? I cacciatori dicono che il bello sta soprattutto nell'attesa, poi dopo si può sparare o non si può sparare, però il fascino, chi ha letto Turgenev lo sa, sta soprattutto nell'attesa, e questo vale anche per il collezionismo, cioè il bello è girare per i mercatini, girare come mi è successo questa mattina per i paesini e imbattersi in qualche cosa e poi da lì magari cominciare a trattare, curiosare, eccetera. Ma ecco. La grande differenza dalla caccia è che col collezionismo si riporta in vita qualcosa al posto di togliergliela. Certo. E, tra l'altro stanno arrivando anche molti sms con le collezioni particolari dei nostri ascoltatori e alcune particolarmente interessanti, poi ve le citerò. Dario, io volevo capire, gli italiani sono maggiormente propensi verso determinate collezioni o non c'è una differenziazione tra nazioni? No, devo dire che non ci sono questo tipo di differenziazioni. Ecco, quello che si può dire, casomai, sono dei periodi un po' delle tendenze. Sì, delle mode. Un po' delle mode, per cui sicuramente adesso, ritornando un po' al discorso che facevo prima, una moda che è scoppiata negli ultimissimi anni è sicuramente quella di tutti gli oggetti legati, se vogliamo, alla tradizione contadina, queste cose. Sicuramente questo è un tipo di collezionismo che ha preso piede, forse perché è una civiltà che sta scomparendo e quindi fortunatamente qualcuno sta pensando anche di conservarle tutte queste cose. Ma poi insomma in generale le collezioni sono un po' identiche in tutti i paesi. Poi ci sono le cose stravaganti, se posso avere ancora 10 secondi, sì, c'è un collezionista di Ascoli Piceno che colleziona osterie, che detto così uno dice, cioè praticamente quando lui viene a sapere, ed evidentemente ha una bella rete di informatori, che c'è qualche osteria che sta chiudendo, smobilitando, lui arriva e porta via tutto e quindi ha delle collezioni, delle osterie intere, ma del 200, del 400, fatte di tavoli, brocche, boccali, che è una cosa assolutamente fantastica. Ecco, lui sì che credo che abbia una casa davvero. Ecco, no, sto pensando, lì ci deve essere spazio per forza, perché sì, non è che la puoi riporre un'osteria in un armadio o in una vetrina. Ecco, questo per dire che poi dopo ci sono anche delle cose assolutamente stravaganti. Dario, l'ultima domanda, hai scoperto fra i tuoi cimeli di avere qualcosa che ha preso valore nel tempo, un valore magari inaspettato? Ma guarda, in maniera inaspettata sì, ma direi sostanzialmente solo e soltanto sul mercato americano, per cui o attraverso internet o andando là, e sono appunto tutte le foto con dediche che ho avuto negli anni da grandi campioni dello sport americano, che casualmente adesso ho scoperto che ogni foto con autografo, soprattutto di certi campioni, ho citato Michael Jordan, ma potete citare, valgono tra i 5 e 6 mila dollari l'una, e quindi ecco, se, guarda, quello che era un semplice atto di cortesia, sì, di amicizia. Infatti, certo, io non ho mai chiesto invece, pensa, perché mi sono sempre vergognato a farlo e ho sbagliato, ecco, avrei dovuto chiaramente, vabbè, grazie Dario Colombo, a voi, buona ricerca nel negozietto, ciao. Alfonso Mignoli, buona domenica. Domenica. Allora, Alfonso è il titolare di un negozio, si chiama Nipper, è un negozio molto carino, è sui Navigli, siamo nella Milano d'epoca, chiamiamola così, e infatti tu ti occupi di vendita e noleggio di tecnologie d'epoca, soprattutto hai ridato luce e vita alle vecchie radio. Alle vecchie radio, infatti, sì, che è anche quello un oggetto di collezionismo. Ecco, ma nasce tutto da una passione, immagino, no? Nasce, Alfonso, tutto da una passione, appunto. Io ho cominciato anch'io collezionando queste radio, così per caso, e diciamo la passione verso questi oggetti, riportarli appunto, come si diceva, in vita, e poi è diventata la mia professione, il mio lavoro. Così, anche perché, ma anche perché, per esempio, scusa, le radio d'epoca funzionano a valvole, sì. chi le produce, come si trovano, voglio dire, sembra tutto allora, così vecchio da un certo punto di vista. Tutto quello che sono i pezzi di ricambio non vengono praticamente più prodotti, però ci sono degli enormi magazzini, ancora ci sono molte persone che hanno conservato questi pezzi di ricambio, che si trovano ancora ogni tanto degli stock di pezzi invenduti che quindi servono per poi riparare queste radio. Quindi le vecchie valvole, ma che costi hanno adesso queste valvole? Ma dipende, possono costare pochi euro, così come le più vecchie, le più rare possono costare qualche centinaio di euro. Ecco, questo significa che bisogna tenere questi oggetti con la massima cura, anche perché andando avanti nel tempo anche le valvole spariranno se non ci fosse qualcuno che così cominciasse a riprodurle, ma non credo che sia un business. Sì, infatti bisogna appunto conservarle al meglio e secondo me cercare anche di non utilizzarle molto, anche perché poi utilizzandole si esauriscono. Anche se il bello però è ascoltare quel suono che siamo abituati a sentire ormai da vecchi film. Senti Alfonso, quindi un consiglio è chi dovesse avere ancora queste radio, non buttarle via, perché i pezzi di ricambio si trovano, perché di solito sono le valvole a saltare, ecco, diciamo che di solito è quello il problema. Sicuramente almeno il mio consiglio da collezionista è dimenticare la parola buttare, perché proprio certo. Secondo me bisogna conservare tutto quanto, anche oggetti che possono sembrare di così poca importanza a prescindere dal valore, però comunque sono sempre un segno del nostro passato ed è importante appunto proprio perché fa parte del nostro passato conservarle. Ecco, certo, ma fra i tanti oggetti che tu hai, perché adesso io ho puntato un po' sulle radio perché... poi ho anche il grammofono. Esatto, perché l'audio è proprio una scelta, no, del negozio, che si occupa di audio soprattutto, ma anche di tecnologia in generale. Quali sono i pezzi più importanti che possiedi o che vendi, oppure solo che possiedi, perché forse quelli più importanti si tengono e non si cedono? infatti. Ma diciamo che i pezzi più importanti sono grammofoni e fonografi, a prescindere anche certe radio particolarmente rare e anche esteticamente molto belle. Ecco, scusami, però, fonografi sono quelli col cilindro di cera? Sono quelli con il cilindro di cera, sì. Sono quelli antecedenti al disco, al diciamo. Al grammofono, sì. È proprio l'invenzione di Edison che appunto per primo ha riprodotto la voce su questi cilindri. E che valore possono avere? Allora, un fonografo può valere da 500 euro in avanti fino a, non so, a trovare dei tin foil che sono proprio quelli successivi all'invenzione di Edison che valgono anche 15.000. Ecco, quindi anche un grammofono invece che arriva dopo ha un prezzo anche abbordabile, quindi uno può anche usarlo come oggetto d'arredamento sì, a casa, sì, no? Ci sono molte persone che hanno dei dischi 78 giri originali che vogliono ancora riascoltarli con le vecchie macchine musicali, quindi con i vecchi grammofoni. E quindi le puntine si trovano perché sono ancora quelle prodotte una volta. Sì. Ecco, anche le puntine, sì. Le scatoline di puntine sono oggetto di collezionismo. Le scatoline che le contenevano? Che le contengono, sì, che le contengono sono oggetto di collezionismo. Anche vuote o devono avere le puntine? Anche vuote. Beh, il collezionismo ha veramente tantissimi aspetti ed è molto bello per questo, perché non finisce mai. Quindi all'interno di una collezione come potrebbe essere quella dei grammofoni c'è un'altra collezione, quella delle scatole di puntine, così come all'interno della collezione delle radio c'è la collezione delle radio in bachelite piuttosto che delle radio in catanine. Insomma, il collezionismo è veramente un ambiente molto molto vasto e che ha sempre tanti angoli da scoprire. Ecco, Alfonso, se tu dovessi fare un appello per cercare un oggetto, una tipologia così che è carente, non si trovano quelle cose lì, quali sono le cose che si fa fatica a trovare in questo momento? Diciamo che le cose più difficili da trovare in questo momento sono certi modelli di radio, così come certi cilindri, certi dischi per quanto riguarda i fonografi e i grammofoni. Ecco, quindi agli ascoltatori. E poi anche certi oggetti prodotti non molto tempo fa, quindi nell'ambito del modernariato, perché io appunto non tratto solamente cose dell'inizio del Novecento, fine Ottocento, ma anche anni Sessanta, ci sono certi esempi di cosiddetto modernariato, appunto gli oggetti in plastica, sì, che sono diventati sempre più rari, ecco, perché ne hanno prodotti meno e quindi ce n'è pochissimo disponibile. Ecco, quindi se avete qualcuno di questi oggetti a casa non buttate assolutamente, non per oggi. Cercate di capire se hanno un valore e forse nel mondo c'è qualcuno che lo vorrà e che sarà disposto a pagare per possederlo. Se avete anche delle radio da riparare o appunto degli oggetti d'epoca che hanno a che fare con il suono, che hanno bisogno di pezzi di ricambio, ci sono i posti dove è possibile recuperare questi pezzi, il sito in questo caso di Alfonso Mignoli e del suo negozio che vende, noleggia e ripara anche oggetti di questo tipo è nipper.it. Grazie, ciao Alfonso. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Ci fermiamo un attimo, poi parliamo con un altro collezionista. Beh, per la verità il papà era il collezionista e lui chiaramente si è appassionato per forza, non potrebbe essere diversamente, e ci spostiamo un po', nel senso che da oggetti forse anche molto italiani o prodotti in Italia, ci spostiamo a straordinari oggetti, soprattutto prodotti negli Stati Uniti. Il riposo del guerriero. Collezioni e collezionisti, oggi la puntata si dedica a questo e tra poco arriverò anche ai vostri messaggi. Insomma, sono molte le collezioni anche particolari che gli ascoltatori fanno. Vi ricordo il numero 349-238-6666 oppure la nostra pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero. Io non avrei voluto intervistarti, Dario Morlacchi, ciao, buona domenica. Ciao a voi a tutti i radioascoltatori. Sai perché non avrei voluto farlo? Perché così avrei fatto finta, cioè della tua, avrei pensato alla tua inesistenza, e quindi non esistono persone che hanno una collezione di slot machine in Italia. Siamo un po' dei matti, invece, siamo rimasti tra i pochi. Sono molto invidioso per questo. Io sono mi piacciono molto le macchine da gioco dell'epoca, sono dell'inizio del Novecento, e tu ne hai molte, ma tutto nasce da tuo padre, credo, e forse dai tuoi nonni. No, da mio nonni no, no i miei nonni padre. Erano soltanto dei proprietari di, un, di una tabaccheria a Borsena. Ma aveva... ah sì, ok. Mio padre lavorava lì, sì, e dava il vino ai, ai soldati americani. Loro quando hanno smontato i campi gli hanno lasciato due slot machine, un jukebox. Vedi, mio nonno invece aveva le slot machine nei bar e poi ha dovuto lasciare la casa per la guerra e le slot machine sono rimaste nel, nella soffitta, chissà chi le ha trovate. E questa cosa veramente mi attanaglia da sempre, perché forse la, la passione non può arrivare da lì, perché non sapevo di questo fatto se non dopo, eppure ho così, ho sempre avuto una, un amore verso queste, questi oggetti, oggetti che nascono negli Stati Uniti e che hanno una vita, hanno avuto una vita alterna, no? Beh, negli Stati Uniti è stato il mercato più, più fiorente di queste macchine. Innanzitutto l'hanno inventate lì, le prime erano a disco, cioè tipo roulette, e poi a, alla fine del XVIII secolo un tale Fay ha inventato la prima slot machine a tre rulli. Ecco, che tra l'altro hanno una meccanica complicatissima, perché devono pagare determinate cifre in base al, alla combinazione dei, del, dei frutti inizialmente che apparivano sul, sul display, chiamiamolo così, in realtà era il vetro che fa vedere cosa contengono i rulli. Sì, è più difficile a spiegarti sì, che certo, a vederlo. Ma tutti sanno come sono fatte, insomma. Ecco. Sì, sono comunque meccaniche, sono... studiati in modo tale da mettere delle combinazioni che possono pagare dagli 80-70% circa. La cosa più bella dell'invenzione della slot machine è proprio il giocatore che si pone davanti alla macchina e trattiene il respiro fino all'arrivo del terzo rullo, della combinazione del terzo rullo. Che... quello è stato il successo vero di questo tipo di macchine. Certo, perché tu aspettavi e se avevi due frutti uguali arrivava anche il terzo, all'arrivo del terzo immancabilmente uguale c'era anche il premio, ecco, l'ambito premio. E, Dario, cosa è successo? Tu ti sei ritrovato un po' questa collezione che tuo papà ti ha lasciato, ne so che a mano ha costruito nel tempo, e poi come hai trasformato questa passione? Beh, in realtà la collezione l'abbiamo creata assieme, noi tre fratelli insieme a mio padre. Ci siamo dedicati alla passione di mio padre che negli anni, alla fine degli anni 80 ha lasciato l'azienda di gestione del divertimento a noi figli e abbiamo coltivato questa passione di nostro padre sia cercando nelle cantine nostrane alcuni pezzi che già erano nel mercato italiano sia andando oltreoceano aiutandolo ad acquistare pezzi più o meno pregiati. Quindi basti pensare che comunque alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90 abbiamo fatto una mostra all'Aringario di Piazza Duomo a Milano dove abbiamo esposto 100 pezzi. Ecco, voi adesso vi siete, non dico trasformati, però vi occupate anche del noleggio, immagino, delle macchine e anche della vendita? Noi facciamo un po' di tutto, sì. Nel senso che molti privati ci contattano, molti collezionisti ci contattano per cercare il pezzo particolare o per riparare qualcosa che hanno già di loro. Quindi noi abbiamo un'officina specializzata nel restauro, nel ripristino di queste macchine, sia che siano slot machine o flipper o jukebox. Però non disegniamo anche altri pezzi di modernariato tipo pompe di benzina, piacere della Coca-Cola e quant'altro. Ecco, quindi la maggioranza credo prodotti negli Stati Uniti, quindi sì, un po' modernariato di quel genere. Ci sono stati alcuni tentativi in Italia e in Germania, ma sono sicuramente riusciti molto male. In sì, meno bene, insomma, perché gli americani poi avevano anche il gusto del design proprio di quegli oggetti che, insomma, la forza stava anche in quello. Dario, io voglio chiederti questo, riparare questo tipo di oggetti, ci sono ancora persone che lo fanno o, non so, puoi dire ai giovani di imparare a farlo perché è un mestiere che va completamente scomparendo? Beh, sicuramente è una questione di esperienza, quindi per poter fare questo genere di lavoro bisogna recarsi da uno specializzato e imparare, cosa che non è così semplice, soprattutto i ragazzi di oggi non è che abbiano molta voglia di usare le mani, ma hanno più voglia di usare il cervello piuttosto che guardare dei monitor. È un lavoro che sta scomparendo, noi fortunatamente abbiamo ancora tra i nostri collaboratori gente capace che riesce ancora a fare questo tipo di... Ma che età hanno? Beh, per esempio quello che lavora da me ha 47 anni. Ah, va bene, quindi insomma, ecco, relativamente giovane alla mia età. No, te lo dico per questo, perché io ho comprato vari manuali di montaggio e smontaggio e ho imparato a smontare e riparare le Mills, che sono delle slot machine. E mi ricordo che chi mi aveva insegnato poi a farlo, parlo di 20 anni fa, e il signore mi ha insegnato, ne aveva già 60 all'epoca, e mi disse: continua, perché poi nessuno più farà questo mestiere, forse ce ne sarà sempre bisogno. Ecco, sì, no, sicuramente tra i tre articoli, tra la slot machine, il jukebox e il flipper, forse il più facile da riparare è proprio la slot machine, perché con dei manuali e parlando di un apparecchio completamente meccanico, i limiti sono già diversi, mentre invece se parliamo di flipper o jukebox si incomincia ad entrare anche, oltre che alla meccanica, anche all'elettromeccanica. Esatto, quindi... per cui dei pezzi di ricambio più difficili da trovare, sì, ovviamente. Esatto. Dario, quanto possono valere le slot oggi? Qual è il pezzo che vale di più e particolarmente pregiato della tua collezione, al di là forse anche delle slot? Dipende dall'oggetto e dal grado di restauro, come per ogni cosa. Sì. Nella mia collezione ci sono alcuni pezzi particolari che non cederò mai, tipo ad esempio una Burnside Machine che è stata costruita a metà degli anni 10 ed era un'azienda controllata da Al Capone. Questa è una macchina molto particolare, con la cassa completamente in alluminio, e di peculiarità c'ha che è assente la scheda premi, quindi uno non sa quanto vince. Compare su una finestrella un numero di vincite di premi, che però non viene data in moneta, e vengono erogate le vincite solo a tiro successivo. Quindi è proprio come mascherare assolutamente o cercare di aggirare l'ostacolo del proibizionismo. Ecco, tra l'altro si potevano anche truccare, vero, le slot machine, perché non pagassero mai il premio più grande, diciamo. Beh, in alcuni casi si poteva cercare di mettere delle sorte di impedimento all'ingresso dell'ingranaggio. Esatto. Però ritengo che erano comunque delle leggende, perché io nella mia non ho mai trovato questo genere di meccanismo. Ok, perché comunque un po' le cose si aggiravano, si cercava, insomma, si è sempre fatto, ecco. Però se tu non l'hai mai trovato, questo può darsi, ecco. No, io c'era la possibilità, ma nessuno l'ha mai fatto, e quindi questo ci fa assolutamente piacere. Se avete qualche oggetto di questo genere da riparare o volete guardare la collezione Morlà, che è ampissima, ci sono tante cose. Voi vendete anche eventualmente alcuni di questi oggetti? Sì, direi sì. Proprio di sì, ecco. Ci sono anche i prezzi sul sito, assolutamente, e quindi potete guardarli e anche andare a visitare ovviamente tutta la collezione o noleggiare se vi serve qualche macchina magari per una festa a tema. Il sito è morlacchi.eu. Grazie Dario davvero, e continuate a portare insomma la vostra passione, a tramandarla, perché non si perda nel tempo, gli oggetti sono bellissimi. Buona grazie domenica, ciao. Grazie Dario, radio ascoltatori. Grazie davvero. Riccardo Pizzi, ciao, buongiorno. Buongiorno. Riccardo, prima di parlare con te volevo leggere qualcuno degli SMS, per esempio Luca da Milano che scrive: colleziono tutto quello che riguarda i vecchi transatlantici, dai menù alle locandine, cartoline che li riguardano, libri, tutto, e questa è una collezione, devo dire, molto particolare. Oppure Gianfranco, siamo a Roma, dice: colleziono da 20 anni biglietti di autobus, metro, treno da tutto il mondo, ordinatamente catalogati. Da bambino pensavo che da grande avrei fatto il capostazione, in realtà poi ho fatto il bibliotecario. Ci sarà un nesso? Penso di sì, solo con la voglia di catalogare tutto ti garantisco che ci vuole assolutamente voglia di farlo, perché catalogare è un grande peso, e tu da bibliotecario invece lo sai sicuramente fare. Riccardo Pizzi, veniamo a te. Tu sei un collezionista di flipper, anche quelli ingombrano, cioè abbastanza, direi molto. Come hai fatto? Come hai cominciato? Ti sei comprato un flipper e sei uscito di casa? No, che è stato un po' un caso. Io la passione ce l'ho da quando avevo 5-6 anni. Poi appunto in tempi più recenti è capitato per caso che ero a Parigi per l'ultimo dell'anno con la mia fidanzata e ho trovato un libro sui flipper, sì, in una di queste biblioteche che ci sono lì a Parigi, e così mi è tornato, diciamo, il desiderio di avere una di queste macchine. Avevamo una stanza in più nell'appartamento che non era usata, e ho pensato: potevo prendere un flipper da mettere mia moglie, non si è opposta. Sì. E così è partita questa specie di pazzia, insomma. Ecco, è rimasta tua moglie malgrado il flipper, questo sì, vogliamo dire. Infatti è una santa donna, io lo dico sempre, perché effettivamente sopportare uno che ha 100 flipper, insomma. Ecco, infatti volevo dire, da uno poi i flipper si sono accoppiati e ne hanno prodotti degli altri. Siamo arrivati a 100 flipper che non stanno più in quella stanza, perché ovviamente possono, quindi. Infatti no, diciamo che io sono solito dire a tutti quelli che incontro, che condivido come questa passione, che i flipper sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Io ho iniziato con uno, poi ne avrei subito due, tre, poi anche complice eBay e internet ne ho trovati altri, ho iniziato ad accumularli in un garage che avevo preso apposta sotto casa, e poi continuano a crescere, ho preso un secondo garage e alla fine ho pensato che era un po' stupido tenere queste cose accumulate e stoccate in un garage. Fermati lì, ecco, perché adesso poi scopriremo che cosa è possibile fare proprio grazie a Riccardo Pizzi, che ha aperto un'associazione e che comunque, insomma, vi dà la possibilità, credo, anche di vederli e di usarli. Il riposo del guerriero. Parliamo di collezionisti adesso con Riccardo Pizzi, che è un collezionista di flipper. Il suo sito è vecchiflipper.it e ha aperto un'associazione culturale, si chiama La Saletta, e dà l'opportunità ai soci di giocare con questi flipper, è così? Esatto, sì. Noi abbiamo degli incontri che organizziamo una volta al mese, dove chiunque può venire a giocare assolutamente a titolo gratuito, con circa una novantina tra flipper e altri giochi che fanno parte della mia collezione privata. Ecco, quindi la possibilità di insomma giocarci e scoprire se poi la passione comincia ad attanagliarsi, ad attaccarsi a noi, e quindi cominciare a comprare flipper, a conoscerli un po' meglio. Riccardo, certo. Voi dove siete? Noi ci troviamo a Milano, nel quartiere Isola, diciamo, dove c'è tra la stazione Garibaldi, via Farini, la zona è quella lì. L'indirizzo ovviamente non è pubblico, perché non è un locale pubblico, è uno spazio dove io tengo la mia collezione, appunto mia cospicua collezione di flipper. Qual è il flipper che ha maggior valore? È difficile dire, questa è una domanda che mi fanno tutti. Beh, immagino. Tutti. Non so mai rispondere, perché in realtà... Quello che ha maggior valore per te, un valore affettivo a questo punto, al di là del valore economico. Io li amo un po' tutti, e questo è il problema. Faccio sempre, se devo decidere di venderne uno, fa sempre molto faticoso, molto. Quindi è difficile rispondere. Ma veramente. Lo fai o non vendi, tieni? Io purtroppo mi sono finito lo spazio, e quindi se compro qualche cosa, solitamente qualcosa deve uscire, per fortuna, dice mia moglie, perché altrimenti sarebbe veramente... Basta che non esca lei, ovviamente, ma non sarà mai così, visto che si sarà appassionata molto a questo. Senti, ti darà grandi soddisfazioni, ovviamente, c'è un flipper che non hai, che non possiedi e che vorresti... così avere nella tua collezione, che non sei ancora riuscito a fare? Sì, tuo? Sicuramente ce n'è più di uno, ma non è che mi ammattisco nel trovarlo. Io diciamo che ho parecchie cose che cercavo, le ho trovate, ho delle cose anche difficili subito trovare lo stesso, quindi sono, diciamo, soddisfatto. È chiaro che non si può avere tutto, poi non si può mai sapere domani cosa posso trovare tutto in un angolino di internet. Assolutamente, devo dire che il internet è un buon modo per cercare i pezzi che si pensava fossero perduti per sempre. Andate su internet, appunto, anche per visitare il sito di Riccardo, che è vecchiflipper.it, e conoscere come funziona la sua associazione, La Saletta. Grazie, ciao Riccardo, e insomma complimenti anche per questa passione. Dottor Francesco Aquilar, buona domenica. Buona domenica a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Psicologo e psicoterapeuta cognitivo, io vorrei sapere da lei perché non riusciamo a buttare via, come abbiamo sentito prima, anche Riccardo dice, io faccio una fatica, perché non buttiamo, perché teniamo i biglietti del tram pensando che poi possano avere che cosa nel tempo, dottore? In alcune situazioni perché ci affezioniamo agli oggetti o ai fatti che sono ricordati da quegli oggetti come se fossero persone, quindi in realtà c'è una mancata regolazione della relazione con le persone, e la spostiamo pian piano sempre più rispetto agli oggetti che ci ricordano un evento o che potrebbero eventualmente servirci in qualche caso. Ecco, però poi tendiamo, una volta che abbiamo costruito la nostra collezione, anche se non è di valore ma è solo affettiva, a mostrarla agli altri, quindi forse è un modo per avvicinarci anche agli altri, no? Quando è possibile fare questo, che è nelle forme, come dire, più leggere di conservazione e collezionismo compulsivo, sì, rimane quello un modo di entrare in relazione con gli altri, mostrando loro come siamo capaci di organizzare degli oggetti in un modo significativo. Gli altri magari spesso non condividono l'entusiasmo che noi abbiamo. Sì, non lo capiscono proprio, certo, immagino che non lo capiscano, perché è qualcosa di molto personale. Dottore, quando invece dobbiamo cominciare a preoccuparci? Dobbiamo cominciare a preoccuparci quando gli spazi della nostra casa cominciano a essere fortemente invasi e limitati dalle cose che raccogliamo. La caratteristica principale del disturbo hoarding, si chiama, di raccoglimento compulsivo degli oggetti, è che le persone limitano sempre più il loro spazio vitale, con conseguenze igieniche e di relazione con le altre persone, perché poi c'è spesso, nei casi più patologici, la paura che se non mantengo un oggetto in vista me lo dimentico, e questa dimenticanza potrebbe avere conseguenze terrificanti nella preoccupazione di quelli che sono affetti da questo disturbo. Ecco, è anche vero che se un oggetto non è in vista, uno se lo dimentica sul serio. Certo, quindi l'errore sta nella bassa capacità di discriminare tra le poche cose che davvero ci servono e le tantissime cose di cui di fatto non avremo bisogno. Chiaro. Ecco. È un problema di intensità, frequenza e durata della difficoltà. Allora, quando uno comincia a scoprire che le cose intorno a lui, insomma, aumentano, non riesce a buttare, eccetera, che cosa può fare? Il più delle volte la persona non se ne accorge. Il più delle volte la persona non se ne accorge e deve essere fortemente sollecitata o addirittura costretta dai familiari o dai conviventi a far intervenire qualcuno che li possa aiutare a liberarsene, perché la consapevolezza di stare esagerando nella raccolta degli oggetti si verifica soltanto in un piccolo numero di persone. Ed è ovviamente già un buon inizio, è ovvio. Certo. Ecco, dottore, c'è qualcosa che più rispetto ad altre si accumula in una casa, per esempio? Al di là delle collezioni, appunto, che insomma le collezioni sono un po' un'altra cosa. Parliamo di oggetti in generale. Oggetti che ci ricordano qualcosa che è stato per noi significativo. Sì. Quindi il biglietto del tram che abbiamo preso quella volta che siamo usciti con, certo, quella determinata persona che ci piaceva. Oppure elementi che domani potrebbero servirci. Però l'ansia porta a una disregolazione completa di quello che ci potrebbe servire. Al punto che alcune persone conservano una testimonianza di un'azione per paura di essere chiamati in un processo, per esempio. Addirittura. Quindi c'è l'idea, e se poi io quel giorno dovevo documentare di essere in un posto diverso da quello dove mi accusavano di essere stati? Quindi la quantità di ansia, di depressione e di perfezionismo mentale dalla quale sono avvolte queste persone diventa gigantesca. E molto spesso l'aiuto deve essere, tra virgolette, imposto, perché le persone sono talmente avvolte in questo schema mentale che non se ne accorgono più. Ecco, quindi questo è interessante appunto per chi, magari anche per i nostri ascoltatori che cominciano adesso a guardare intorno a casa loro che cosa trovano, e speriamo anche a buttare le cose che sono davvero diventate non necessarie e che non hanno magari nessun valore dal punto di vista del collezionismo. Dottore, la ringrazio, buona domenica. A lei buona giornata. Grazie, davvero. Per esempio Barbara scrive: trattenere gli oggetti mi intasa mentalmente, è meglio ringraziare, lasciare andare e aprirci al presente. O ancora: buongiorno, io possiedo una collezione, pensate, di 400 lucerne a olio dal Medioevo ai primi del Novecento. Vorrei collocarla in un museo per renderla visibile alla collettività. Questo è un altro argomento interessante, gli spazi per poter esporre, e non è così semplice come si può pensare, eppure un metodo, un modo ci sarà, però oggi non riusciremo a occuparci di questo. Magari ce ne occuperemo in una prossima puntata. Il riposo del guerriero. Le 11:06 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Continua il riposo del guerriero. Oggi stiamo parlando di collezioni e collezionisti. Arrivano anche i consigli di ascoltatori. Avevo letto di un messaggio di Carlo che ha una collezione di 400 lucerne a olio, e un consiglio arriva da, non è firmato il messaggio, però si scrive: al signore delle lucerne suggerirei di pensare anche a dei locali pubblici tipo taverne o cascine per mettere in mostra appunto le lampade a olio. Può essere una bella idea. Ma visto che parliamo di collezioni, vediamo di capire da dove arriva questa parola. Come sempre, ciao Francesca Dragotto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il nostro ricercatore nel settore glottologia e linguistica, siamo all'Università di Roma Tor Vergata, diciamolo perché è un po' che non lo facciamo. Allora, Francesca, collezione arriva da che cosa? Allora, oggi sì, divagheremo sull'etimologia di questa parola e questa divagazione la intitoleremo le collezioni, l'eleganza e la lettura, perché si tratta di tre parenti piuttosto stretti di una stessa grande famiglia. L'etimo di collectio, che è la parola alla base di collezione, è da ricondurre al verbo colligo. Di questo verbo troviamo tantissimi usi fin dal latino delle origini. Tra i primi, anche peraltro interessante, c'è un uso nell'ambito della filosofia, un calco sul greco, quindi un tentativo di ripresa di un significato già diffuso nel greco, che sta per dedurre, concludere un ragionamento. Questo perché? Perché alla base di questo composto, cum più lego, c'è appunto il verbo lego, che è di straordinaria importanza perché è connesso con l'idea basilare del raccogliere, riunire, mettere insieme. L'uso più famoso di lego è infatti legato alla lettura, probabilmente perché per poter leggere una parola occorre mettere insieme le lettere di cui la parola stessa è costituita. Nella stessa famiglia però troviamo appunto, oltre a collectio, anche collector, che è colui che pratica la collezione, l'attività del collezionare, collectivus, che in italiano ha lasciato in eredità la parola collettivo, collectaneus, il volume costituito da articoli scritti da persone differenti, e udite udite, elegance, la parola elegante. Perché? Perché chi è elegante è appunto colui che sceglie bene, quindi per un rapporto di contiguità, un rapporto quindi di causa-effetto, colui che è elegante perché ha scelto bene. Quindi alla base di tutto c'è l'idea del raccogliere, del mettere insieme che cosa, e questo è venuto fuori nella prima parte della puntata, elementi che sono caratterizzati da un valore simile, un valore intrinseco simile, quindi non parliamo appunto del valore economico, ma dal fatto di possedere tratti distintivi analoghi, caratteristica che ci spinge a raccogliere elementi seriali, elementi simili, che percepiamo come simili. Ecco, no, che stavo ascoltando io, ero in religiosissimo silenzio, e quindi da qui anche la collezione di moda a questo punto. Sì, assolutamente sì. C'è da dire una cosa, che mentre la parola è di etimo, insomma tutta la storia della parola ha a che fare con il latino, il significato italiano che si riconduce proprio alla pratica del raccogliere oggetti che riferiamo ad una stessa categoria l'abbiamo desunto dal francese. Le prime attestazioni sono grosso modo della fine del 1600, questo probabilmente significa che insieme a quello specifico significato abbiamo acquisito anche la pratica del raccogliere oggetti, perché spesso una parola viene ripresa da un'altra lingua proprio perché si riprende un tipo di pratica o un oggetto, in questo caso però una pratica che era prima assente nella lingua e nella cultura di arrivo. Ecco, tra l'altro mi viene in mente che collect in inglese significa proprio raccogliere, quindi vabbè. Francesca, tu hai detto un poco fa assolutamente sì, siamo stati ripresi la settimana scorsa da degli ascoltatori via mail, via sms, è stato usato assolutamente in modo completamente sbagliato, ah, ma cosa state facendo, proprio voi che fate della lingua italiana, bla bla bla bla. Vogliamo spiegare dove è stato l'errore, forse anche dell'ospite che avevo la settimana scorsa, che ignaro di tutto ha usato l'avverbio? Dovremmo innanzitutto risentire la frase pronunciata dall'ascoltatore. O le frasi che sono state pronunciate. In linea di massima è probabile che abbia utilizzato assolutamente in termine assoluto, però per intendere assolutamente sì. In italiano il termine, l'elemento assolutamente è per così dire neutro, nel senso che è un rafforzativo che però appunto in quanto rafforzativo deve essere abbinato a un elemento che è la negazione o l'affermazione, l'elemento di massima affermazione, quindi assolutamente sì, assolutamente no. Anche in questo caso per un effetto di ripresa dall'inglese si sta però diffondendo un uso assoluto di assolutamente, per cui si dice assolutamente per intendere assolutamente sì, cosa che genera però uno stato di confusione nel parlante italiano che non ha pratica del modello anglofono. Perché? Perché sentendo dire assolutamente non riesce a capire quale sia la posizione dell'interlocutore, quindi se sia un assolutamente assolutamente sì o un assolutamente quindi no. Dobbiamo mettere il sì e il no dopo. Esattamente, quindi dobbiamo evitare un abuso dell'elemento perché? Perché a livello psicologico è legato alla necessità di dare una maggiore evidenza al sì o al no. Nel momento in cui decidiamo di utilizzarlo, però, ci dobbiamo appunto ricordare di abbinarlo o al sì o al no. Ecco, grazie. Per cui, insomma, risposta anche agli ascoltatori che hanno ripreso e hanno scritto sms, dicendo, ma voi? Grazie Francesca, ciao. Grazie a voi, buona domenica. Ciao, scusate, non c'entrava col collezionismo, però era una cosa di settimana scorsa e volevo rispondere agli ascoltatori che hanno fatto notare questo errore. E, non parleremo di tutte le collezioni oggi, veramente impossibile. C'è Giampiero di Roma che scrive, ma parlate delle collezioni di carte da gioco, mio amico ne ha 4.000, beato lui, io ne ho soltanto un centinaio di mazzi, e le carte da gioco sono bellissime da collezionare e da avere, ma appunto non le citeremo oggi, le abbiamo citate, anzi però non parleremo di collezioni importanti, ma voglio citare un'altra collezione curiosa, è il Museo Fisogni, c'è Guido Fisogni al telefono, ciao Guido, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, Guido ha creato il Museo Fisogni, il sito è www.museo-fisogni.org e hai 7500 e le pezzi, giusto? Che, sì, cosa, sì. Che cosa hai raccolto nel tempo? Ma ho raccolto prima di tutto i distributori di benzina a partire dal 1890, che è il primo scusa, in assoluto. Ma cosa andavi lì? Tiravi via il distributore e lo portavi come fosse? Come... sì, beh, girando un po' il mondo dove lo trovavo lo prendevo. Sì, ma non lo puoi portare in aereo un distributore di benzina. No, no, sì, costava di più il trasporto appunto del rottame, diciamo. E quindi cosa facevi? Come ti è venuta? Raccolgo distributore di benzina. Com'è che ti è venuta l'idea? No, mi è venuta perché io ho fatto un'impresa che costruiva e faceva la manutenzione delle stazioni di servizio. Ah, vedi? E quindi c'è avuto... negli anni 60, quindi i distributori più vecchi sono andato poi a cercarli in giro. Certo, perché, è creato questo museo, sarà l'unico, sì, in Italia, è l'unico. No, è l'unico al mondo. Al mondo addirittura. Mi hanno dato il Guinness dei primati perché non ce n'è un altro completo come questo. Ma dove sei fisicamente? A Palazzolo Milanese. A Palazzolo Milanese, siamo vicino, a Palazzolo vicino a Milano, è vicino a Bergamo anche? No, o non c'entra niente. Sull'Oglio. Ah, ecco, quindi sbaglio. Palazzolo Milanese, sì, è una frazione del comune di Paderno Dugnano. Ho capito. È ed è periferia di Milano. Il museo è sempre aperto o bisogna chiamare? No, perché il museo adesso è imballato perché io sto cercando di venderlo. Ah. E in Italia io l'avevo proposto anche gratuitamente a qualche istituzione pubblica, ma non l'hanno voluto. E quindi sto cercando all'estero, chi lo vuole glielo vendo. Beh, speriamo che siano gli italiani a volerlo, scusami a questo punto Guido. Sì, ma purtroppo in Italia sarebbe una cosa da istituzione pubblica, perché insomma è abbastanza grande, no? So che nelle istituzioni pubbliche, insomma, la solita storia, ecco, bisogna essere amico degli amici, insomma. Io spero che questo appello sia ascoltato, Guido, e spero di poterti venire anche a trovare e se è possibile visitare anche i pezzi sì, sì, che hai. E vabbè, facciamolo come appello, ci sono 7500 pezzi, ci sono, sì, molti distributori del carburante, le latte dell'olio, hai, sì, ingrassatori, estintori, compressori, tutto quello che riguarda poi quel mondo. Il distributore disegnato dall'architetto Piacentini per Mussolini, che in stile Littorio proprio è una cosa unica. E quindi solo quel pezzo varrebbe già tantissimo. E tu dici... A trovare l'amatore, però. Beh, però al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano forse uno spazio dedicato a questi oggetti lo si potrebbe anche trovare. Ma quello anni fa l'avevo sentito, ma poi era successo che oltre a doverlo regalare avrei dovuto ristrutturare io il capannone dove lo mettevano, per cui insomma era un po' tardi. Un bel modo, no? Se dimettici a posto questo e dacci anche la roba. Magari adesso però le cose sono cambiate, io ci riproverei se fossi in te. Guido, cerchiamo di darti una mano, sicuramente. Bene, se qualcuno così all'ascolto avesse captato il segnale, allora così si faccia pure avanti. Grazie davvero e complimenti per quello che hai fatto e speriamo che resti in Italia tutto questo. Speriamo. Ciao, ciao Guido, buona domenica. domenica, ma mi dispiace comunque tantissimo. Facciamo noi qua, Radio 24, mettiamo sotto nello spazio, ne abbiamo tanto qua di spazio. Allora, il sito ve lo ricordo ancora: www.museo-fisogni.org. Andatelo a visitare, c'è anche parte della collezione e alcune cose sono anche in vendita, magari vi interessano. Chissà che non si riesca a trovare posto per le pompe di benzina di Fisogni. Il riposo del guerriero. A proposito di quello che aveva raccontato Francesca Dragotto prima, collezionare, leggere, ci fanno notare c'è anche il nome del gioco, il Lego, no? Perché unisce pezzi molto simili tra loro. E sono Tonino, attenzione, colleziono da più di 20 anni spille di ping pong. Cosa sono le spille di ping pong? Ho circa 3.000 pezzi e siamo pochi in tutto il mondo. Ci credo che siete pochi. Cosa sono le spille di ping pong? Non lo so, non ho idea. Cioè, il pins e le spille in generale sì, però forse dedicate solo a quel, a quello sport. Non lo so, curioso, ma ci sono altre collezioni curiose comunque. Video game, video game. Federico, guarda che hai dei concorrenti, è arrivato un messaggio di un ascoltatore, credo, non si è firmato, che colleziona computer Commodore anni 80 e synth analogici. Tu invece cosa collezioni, Federico? Buongiorno. Buongiorno. Allora, Federico, che fa tutt'altro nella vita, a un certo punto ha deciso di voler possedere tutti i videogiochi degli anni 80. Sì, esatto. Tutti, tutti. Sì, tutto. Beh, la cosa preoccupante è che tutti i giochi dagli anni 70 ad oggi, la realtà è quella, è ancora peggio, ancora più preoccupante, Stefano. Senti, ma lo spazio come è sempre meno alla fine? Lo spazio è sempre meno, per cui oltre a casa ho un garage, un altro garage, un magazzino. Ecco, ma tutto questo come si trasforma, Federico? E purtroppo è parte l'inizio, che la mia storia è semplicissima. Mi aveva regalato l'Intellivision quando avevo 6 anni e poi l'ho riscoperto quando sono un po' cresciuto. Nell'epoca poi continuavo a comprare console, giochi normali, ma collezionandoli, ma relativamente. Riscoprendo il mio passato ho deciso di riaccumulare tutto e da lì è partita. Poi non fermarsi è difficile, perché quando ti prende la passione vera hai voglia sempre di avere più oggetti, di collezionarli, studiarli, capire, giocarli soprattutto, anche perché poi si tratta di videogiochi per me. Ecco, Federico, ridà vita ai videogiochi esponendoli poi in varie mostre e tra poco forse, se tutto accadrà, anche in un museo, e, per dare la possibilità di rigiocare questi giochi, perché la forza è di renderli ancora fruibili. Certamente sì, cioè quello è poi c'è stata quell'evoluzione, come ben detto, e noi abbiamo aperto poi col nostro sito gamescollection.it, abbiamo avuto un'iniziativa nel 2006, la prima, Video Games History, abbiamo aperto le porte a tutti i nostri giochi, dando la possibilità a chiunque a Monza, e sono arrivati da tutta Italia poi a provarli, per giocarvi e rivivere il mondo degli anni 80 dei videogiochi, come anche tu ci hai insegnato all'epoca di Zaff. Ecco, di una parte della collezione di Federico, grazie al cielo, è mia, nel senso che a un certo punto volevo liberarmene per lo spazio, però non volevo venissero buttati via, e quindi Federico gli ha ridato nuova vita e ti ringrazio per questo. Ma il concetto è, chi è che viene a scoprire e a rigiocare? I vecchi, tra virgolette, quelli che avevano, non so, 15 anni, 18 anni negli anni 70, oppure anche i giovani che quei giochi non li hanno mai vissuti? La cosa che più ci ha sorpreso ovviamente è vedere i genitori che accompagnavano i figli e l'emozione dei genitori, perché rivedere giochi che all'epoca noi vivevamo in sala giochi, perché non era così facile, non esistevano le console di adesso che hanno una qualità estrema, per cui per giocare al meglio bisognava andare nelle sale giochi. Ma la cosa bella è stata vedere i bambini che si entusiasmavano, perché forse ne avevamo parlato già una volta io e te, oggi come oggi i giochi sono molto complessi. Io ad esempio alle volte non ho quasi voglia di giocare, perché diventa quasi impegnativo la sera dopo il lavoro arrivare, mentre il gioco dell'epoca con un solo tasto e joystick in un attimo è subito fruibile, è subito un divertimento. Anche se poi era è vero, anche se poi era complicato andare avanti. Federico, c'è qualche oggetto che ha un grande valore nella tua collezione? Sono sincero, sono tanti, però sicuramente ho dei, chiamiamoli fondi di magazzino, ossia quegli oggetti che vengono ritrovati all'interno di vecchi giocattolai, piuttosto che ancora chiusi, sigillati come erano arrivati all'epoca, come arrivavano all'epoca, come se oggi fossero in un negozio in esposizione da comprare, tipo un Vectrex. Quindi mai usati, di conseguenza hanno un valore più alto. Chiuso, addirittura io ho un Vectrex italiano, che è una console, la prima console unica che aveva lo schermo integrato vettoriale. Molto particolare, andavano di moda negli anni 80 i videogiochi in sala giochi vettoriali, ed è ancora chiuso nello shipping box, quindi nella scatola in cartone con cui veniva spedito dalla MB ai negozianti. Se volete fare un dispetto a Federico, aprite la scatola e giocateci questo. Ma ne ho altri per giocare, per cui mi sono portato avanti, ne avevo già uno per forza, perché comunque poi il gusto è anche quello di vederlo ancora in vita. Se volete farlo, potete farlo, c'è il sito che è gamescollection.it, e magari se avete dei vecchi videogiochi che pensate possano avere un valore o un senso perché rappresentativi di quell'epoca, o magari perché è un titolo ormai introvabile, fatevi sentire, cioè scrivete a Federico e magari avrete la possibilità anche di monetizzare o comunque di dargli nuovo valore al vostro oggetto che stavate per buttare. Grazie Federico. Grazie a te, ciao Stefano. Ciao, buona domenica. Grazie. Gamescollection.it, perché anche i videogiochi del passato non devono morire. Il gastronauta. Poi arrivano libri, ovviamente, insomma, di tutto di più. Davide, buongiorno, c'è qualcosa che collezioni tu? Sì, collezione bottiglie di vino ovviamente. Ma quelle vanno stappate però, se no scusami. Sì, ma vanno stappate al momento giusto, per esempio andare in cantina puoi trovare una bottiglia del 1980 e tu la bevi in questo periodo e quindi vedi cosa è successo in questi 30 anni, quindi è divertente per questo. No, è vero, è sbagliato usare la parola collezionare bottiglie, tutto al più uno tiene delle bottiglie per vedere poi lo sviluppo del tempo, no? Io ho collezioni particolari, ho le spille da giacca come strumenti musicali che mi vado a cercare nei mercatini, si chiamano praticamente micromurrine sono, e quindi le cerco e vado nei mercatini, specialmente il mercante in fiera o quelli domenicali, per cercare appunto queste spille che poi mi metto sulle giacche ovviamente. Ecco, quando invece parliamo di vini d'annata, come facciamo a capire se c'è un modo ovviamente che la bottiglia che stiamo comprando è di molti anni fa sia ancora buona da stappare? Come... Ma, guarda, la regola è vedere dove arriva il vino, se arriva sul collo, se arriva un po' sotto il molto sotto il sughero, se arriva quando vedi che c'è molto, diciamo, distanza dal sughero, cominciano a esserci dei pericoli. Però l'altra sera un amico mi ha detto che ha bevuto una bottiglia di Spumante del 1980, era pericolosa nel senso che era lontana dal tappo, il vino in realtà alla fine è risultato veramente straordinaria. Quindi ci può, sai, nell'evoluzione degli anni può succedere di tutto, secondo me, delle regole, questa è una regola. Poi la metti anche in controluce, molte volte vedi il colore del vino, perché se è un colore del vino molto, un rosso che è diventato arancione, beh, non ci sono dubbi su questo. Certo. E quindi sai che è una bottiglia che non devi acquistare, e anche perché quando vai in enoteca a cercare magari appunto trovi la bottiglia e la rischi anche di pagarla molto per poi non... Certo, però c'è la garanzia, cioè un'enoteca te la deve garantire, così pure nelle aste di solito sono 6 bottiglie, ne viene aperta una, perché nelle aste, sai, girano anche delle cifre grosse, viene aperta una, se quella sicuramente funziona, allora vengono date le altre. Poi c'è il problema del tappo, sai, il tappo è sempre un pericolo pubblico e quindi non sai mai se anche con la bottiglia vecchia è tutto corretto e poi sa di tappo. Ecco, quindi un'enoteca deve offrirti comunque la garanzia della qualità, per cui se tu torni indietro dicendo guardi che il vino non era buono, magari gli fai anche, gli porti anche la bottiglia stappata, e sono costretti in qualche modo, cioè sono costretti, oppure appunto, esatto, è semplicemente una scelta del negoziante. No, è una scelta del negoziante. Molte volte addirittura sul tappo non ne rispondono neppure i ristoratori. Quindi sicuramente è abbastanza problematico questo discorso. Però è giusto farsi valere in questo senso. Beh, certo. Diciamo che un enotecario corretto, professionale, probabilmente di fronte a una bottiglia difettata ne deve rispondere, perché poi lui si rifà sicuramente sul produttore. Ma ne va esattamente come, voglio dire, un oggetto che tu compri non è conforme all'acquisto che hai fatto. Certo, cioè, certo, siamo abituati certo, così. Però è interessante, perché è un aspetto che può in effetti essere controverso. Davide, io sento che sei una conferenza, lo so, sento anche parlare, quindi ti lascio di nuovo alla conferenza. Grazie, sentiamo poi domenica prossima noi e sabato col tuo gastronauta. Ciao. Okay, ciao, grazie. Il riposo del guerriero. Prima di cominciare con il nostro mistero in 24 minuti, ancora qualche messaggio, perché stanno arrivando dei messaggi di solidarietà al nostro ascoltatore, nostro amico che ha raccolto i distributori di benzina e che, così, dovendo smantellare il proprio museo, cerca uno spazio per poterlo regalare, perché ha detto che era disposto anche a questo. Lui si chiama Guido Fisogni e il museo è Fisogni. Ci sono arrivati quindi messaggi anche polemiche, non verso di lui ma verso il sistema museale, però potete trovare tutto sulla nostra pagina di Facebook. Francesca Dragotto invece ci ha fatto notare una cosa che riguarda l'ego. L'ascoltatrice che ha parlato del gioco unito alla parola leggere e quindi collezionare, in realtà Francesca dice è una casualità affascinante, ma è casuale, perché l'ego è una parola macedone, una contrazione delle parole danesi che significano gioca bene, quindi assolutamente un caso, tutto qui, affascinante, dice appunto, ma un caso. E poi c'è una segnalazione molto interessante, quella che riguarda il museo Pelagalli. Andate sul sito, il sito è museopelagalli.com, e sono 2000 pezzi esposti, la storia della comunicazione radio, tv, cinema, beat musicale dal 1760 al 2000, ed è l'UNESCO ha dato il suo benestare a questo museo. Di conseguenza andatelo a visitare, credo che sia su prenotazione, o comunque c'è il sito per avere tutte le informazioni. Grazie ad Alessandro per avermelo comunicato. E adesso giochiamo un mistero in 24 minuti. Siamo pronti a regalarvi, speriamo, questi 1000 euro da spendere su librerierizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, la soluzione, una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Ma partiamo da 1000 euro. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai. Non so se tu sia ritornato o è la prima volta. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Prima volta o hai già provato? Ho chiamato un paio d'anni fa. Quindi sei ritornato, esatto. Vedi, anche tu. Allora, Luca, cosa vogliamo fare? Abbiamo 1000 euro qui, oppure possiamo ascoltare un altro indizio? No, tiriamo al bersaglio grosso, dai. 1000 euro, proviamoci. Sì. Sì. Allora, io ho pensato al ritorno delle partite della Serie A di calcio alle 15, dopo parecchio tempo, e niente, spero che Bruno Lauti mi porti fortuna, visto che siete casa qui a conterranei, infatti è proprio così. Luca, chi lo sa, vedremo, come sai la risposta giusta solo allo scoccare del 24esimo minuto. Buona giornata, a dopo. Grazie a tutti. A te Roberto, buongiorno da Milano. Buongiorno Stefano. Roberto, siamo a 1000 euro, tu collezioni qualcosa? No, diciamo così, ho quelle della gioventù, ma le tengo ferme, nel senso non sono più nato avanti. Ma quelle che cosa? Cosa tieni della gioventù? Oh, le figurine lì. Ah, le figurine, ecco, no, perché non avevi detto il capito, il soggetto, no, e quindi non capivo. Poi i francobolli che chi non li ha. Ecco, tra l'altro devo dire che tra i messaggi che ho ricevuto oggi c'è anche quello che chiedeva di visitare la collezione Panini, che non ha solo figurine su internet, perché è una collezione importante, poi insomma ha fatto un po' parte dell'infanzia di tutti. Confermo. E anche della gioventù. Allora, confermo. Roberto, che cosa vuoi fare? Do la soluzione, perché se sento un altro indizio poi magari vado fuori strada, quindi dovrebbe aiutarti, però prova, vai. Ho capito, ma se non posso cambiare idea in 10 secondi. Hai ragione anche tu. Allora, beh, 10, sono 3, sono 2 minuti, dai, per pensare. No, la sparo. Vai. Per me è Mourinho, per il potenziale ritorno in Premier League. Chissà, no, dico per lui, non so chissà la risposta, ma anche per lui. Grazie Roberto, ciao, buona domenica. Ciao. Sul calcio oggi siamo così, la direzione è un po' quella. Francesco da Modena, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao Francesco. Cosa vogliamo fare? Anch'io mi sparo subito. Sì. Rimango nel mondo del calcio e dico Emiliano Mondonico, che è tornato ad allenare. Sì. Grazie Francesco, non dico niente, lo sai, buona giornata, ciao. Mi piace perché l'argomento è calcio oggi, così è successo che la settimana scorsa avevamo una questione calcistica, e quindi magari anche questa. Giovanfranco, ciao, sì, da Catania. Buongiorno Stefano. È bello questo nome composto, non l'ho mai sentito, perché ha un doppio senso, perché è il composto di Giovanni e Franco, ovviamente. Sì. Però Giovan Franco ha un significato in italiano, che, capito? Un giovane sincero significa. E io spero di essere così. Beh, comunque se è uno dei miei motti di vita, senz'altro, chi è onesto, chi è sincero, chi dice le cose come stanno, secondo me sbaglia di meno. Allora diamo la risposta. Un collezionista. Sei anche un collezionista di cose, Gianfranco? Allora, io ho adorato la trasmissione di oggi e credo che oggi sia il mio giorno fortunato. Vediamo poi se è vero in base alla risposta che ma darò. Cosa collezioni? Ho anche dei flipper, quindi anche quando tu. Ho sentito parlare del sito che già conoscevo, già ero contento. Pensa che io sono un grande fan appunto di oggetti di questo genere, però non ho mai avuto lo spazio per possedere un flipper, purtroppo avrei tanto voluto, andrò a vedere la collezione. Allora, sì, ma io ne ho soltanto 3, mentre il collezionista ha una saletta di 100. Sono 3 nel mio appartamento, non potrei più entrare io, già non posso. Gianfranco, allora che cosa vuoi fare? Dare la risposta, ascoltarmi? Sì, sì, io dalla risposta anche tu. Non parlerò di calcio, perché secondo me la risposta non riguarda il tema sportivo, ma a mio avviso, e spero, non so quante parole posso usare per dare la risposta, per me il ritornerai è il monito, con quello che segue, di quello che il nostro presidente Napolitano ha voluto rispondere sostanzialmente a Cesare Battisti, perché l'ex terrorista sostanzialmente ha chiesto in questi giorni, con molta risposta, di poter sostanzialmente, insomma, poter ritornare. Adesso mi faccio ritornare, ha chiesto al Quirinale tutta risposta, invece ha detto che sconti la sua pena. Sostanzialmente questo è il concetto. E il ritorno, poi la canzone di Bruno Lauzi lo dice chiaramente: ritornerai, nulla è cambiato. Insomma, tante cose. Sì, poi dipende, ritornerai, sì, nel senso, ritornerai prima quello, no? Ritornerai. Beh, la canzone di Bruno Lauzi è per certi aspetti è un pochettino marziale, quindi forse. Guarda Gianfranco, io ti darei già così 1.000 euro solo per la risposta così articolata che ci hai dato, ma come sai, scopriremo se sarà quella giusta solo dopo. Sempre, vi continuerò a seguire. Ti ringrazio, buona domenica. Grazie, buongiorno. Giovanni da Vicenza. Buongiorno a tutti. Ciao Giovanni, siamo ancora a 1.000 euro. Che cosa vuoi fare? Proverei anch'io, la risposta è simile a quella dell'ascoltatore di prima. Ci avrei scommesso. Rimango un po' più specifico, direi l'intervista di Cesare Battisti alle Iene, proprio nella quale dichiarava che avrebbe desiderato tornare in Italia. Grazie Giovanni, ciao, buona domenica. Grazie, buona giornata. Giulia, da Roma. Salve. Ciao Giulia. Salve, io invece ho pensato tutta un'altra cosa, per me è la neve a Roma. Come va? Beh, insomma, non molto bene. Come non molto bene? È bella, sì, perché le strade sono impraticabili, al di là di quello che fanno vedere in televisione. Io sto all'Eur e qui non si è visto nessuno, non si è visto uno spargisale, non si è visto nessuno. Dovete prendere le pale e sparare, no? Infatti, è quello che facciamo, ci dobbiamo arrangiare da soli, però se ci arrangiamo da soli non so a che cosa serve il nostro sindaco. Vabbè Giulia, grazie, ciao! Ciao, grazie. A te. Sono anche molti video su YouTube, potete andarli a vedere, sono anche divertenti, insomma, che ironizzano un po' sulla situazione. Gisella da Torino, buona domenica! Buona domenica a voi, ciao. Ciao Gisella, sai che alle 11.43 siamo ancora con un solo indizio, cosa vuoi fare tu? Guarda, mi sono venuti un mucchio di dubbi sentendo gli altri partecipanti. Sì. Però io proprio subito distinto mi è venuto in mente invece Celentano e il suo ritorno a Sanremo. Mi sono venuti un mucchio di dubbi, perché Mondonico è buono, molto buono. Beh, sono tutte buone le risposte oggi, sì, diciamo la verità. Ma chissà comunque, se c'è già quella giusta o meno, non dico niente. Non dici niente, no. Ok. Gisella, ciao, buona domenica, ciao, grazie. Buona domenica a te, ciao. Ciao, siamo ancora un indizio, 11.44, Elena da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao. Ma purtroppo la mia risposta era proprio sulla neve, quindi sono rimasta un po' spiazzata. Io avrei pensato alle nevicate. Guarda, allora il mio consiglio potrebbe essere questo, ma solo se lo vuoi ascoltare, visto che la neve tanto non lo puoi dire perché l'hanno già detto. E potrebbe essere quello di ascoltare un secondo indizio e quindi magari riuscire ad avere un'altra idea. Giusto, vuoi? Giusto, possiamo far così. Un mistero in 24 minuti. Arrivano anche molte risposte via SMS, però sapete che non valgono. Si può solo chiamare il numero 800 24 00 24. C'è Elena da Monza in questo momento al telefono. Lei ha chiesto un secondo indizio. Belle canzoni che sono state cantate da Raff e composte anche da lui con i testi di Cheope. E Elena, era due, questo il titolo della canzone. Due. Parlando di traffico mi fa ancora di più pensare al caos che è successo per quanto riguarda la neve e altro. Senti, allora facciamo, ma siccome Monti diceva che siamo al di fuori, ecco, stiamo iniziando un po' la risalita, sì. Speriamo che ciò che deve ritornare sia... Ritornerà il boom, diciamo. Ecco, la situazione almeno tranquilla, sì. Normale, anche se un po' politica come... Vabbè, però, insomma, ci sta. Grazie Elena, buona domenica, ciao, grazie. Sì, Alessandro da Milano, buongiorno. Eccomi. Alessandro. Buongiorno. Abbiamo due belli indizi adesso, eh. Senti, ma io sono fedele a quello che ho pensato all'inizio. Sì. Il ritorno di Berlusconi che è uscito dal portone e ritorna attraverso una finestra, per cui ritorna dando una mano a quelli del suo partito. E il in due? Maniera, sì. In maniera un po' più politica. Bene, allora grazie Alessandro, ciao, eccolo qua. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Nicola da Roma, buongiorno. Buongiorno Nicola, mettiamo insieme un po' gli indizi, va? Sì. Mi ha bruciato l'ascoltatore di prima. Guarda, non importa, non è la risposta giusta. Allora sentiamo un altro indizio. Ecco, un terzo indizio, bravo, hai fatto proprio bene a scegliere il terzo indizio. Siamo a 300 euro. Riesce solo a farti male. Eccoci qua, Nicola, allora ricordi questa canzone? Sì, la canzone sì. Ti ricordi chi la cantava? No. Te lo dico io, la cantava Alice. La cantava quindi, Alice. Quindi il ritorno di Alice. E per Elisa era la canzone. O il ritorno di Elisa. In qualche modo, io non dico più niente, Nicola. Metti insieme i pezzi, dai che facile adesso, su. Ritorno 2, ritorno 2, Alice, per Elisa. No, non non esce niente. Nicola, quanti anni hai? 39. Lo sai che quando sentirai sentire la soluzione ti martellerai, non ti dico cosa? Sicuro. Grazie. Ciao Nicola. Ciao. Giuseppe, buongiorno da Milano. Buongiorno. Aspetta. Ciao Giuseppe, cosa facciamo? Ma, diamo la risposta giusta? Ma io sono stato anch'io bruciato dai precedenti ascoltatori che hanno dato delle risposte a cui pensavo anch'io, quindi adesso sono un po' in difficoltà per la verità. Si può sentire un altro indizio? Guarda, non c'è tanto tempo. Non c'è tempo. Sì, dai, sì, ce l'abbiamo, via, vai. Donna, tutto si fa per te, tutto pur di piacere a te, tutto per un tuo bacio, per un sì, per un no, per te. Giuseppe, eccoci qua, questa l'avrei riconosciuta, è Nicola Rigliano che canta Donna. Sì. Quindi ritornerai 2 per Elisa di Alice, Donna. Donna. Ma potrebbe essere la star Madonna, la cantante. Giuseppe, no, mi dispiace. Accidenti. Ciao Giuseppe, grazie, grazie, te, grazie, ciao, ciao. C'è Giuliano da Verona, credo che sia l'ultimo. Giuliano. Buona giornata. Buona giornata, Giuliano. Mi dica lì? No, non credo. No, io a Verona nevica. Allora diamo la risposta giusta, Giuliano. Ascolta, guarda, all'inizio avrei pensato che fosse quella stupenda risposta del presidente per Cesare Battisti. Adesso non saprei proprio cosa dirti, guarda. È come Trux, se non avessi giocato, facciamo così, guarda, perché siamo proprio agli sgoccioli. Getto la spugna. Non buona hai giornata. Giocato, grazie, ciao. La risposta era il ritorno delle Kessler, che dopo 30 anni tornano. Ritornerai 2, perché sono gemelle Alice ed Ellen Kessler. Ecco perché il terzo indizio è donna. Grazie a Giorgio De Luca, redazione, all'assistenza di Anita Panizza oggi, Paolo Corleoni in regia e a voi. Buona domenica, ci sentiamo domenica prossima con il riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallarini.